Ora? Ora? Attenzione 10, c'è qualcuno? Vabbè, Rob. Ciao lui, vabbè, a ne voleva. Ciao lui, ma è freddo. Ma è freddo abbastanza, già ti tappi. Te ti ha fatto una passata di grandine poco fa, mezz'ora fa. Dili che grandine ha trovato le parti tue. Oh, era tutto chiuso, Rob, non ho sentito niente. Non c'è nessuno. Oh, per stamattina è acceso. Non è stato un po' Claudio. No, ho acceso adesso 10 minuti, devo uscire dopo che cresce se c'è qualcuno. Lo conosci la 48 Plus tu di baracchino tu? Qual ero? Sì. È bello, ma ce l'avevo, me l'aveva dato Salvatore Maestrale, te lo ricordi, ma un po' di anni fa, boh, 8-9 anni fa, e ce l'avevo fatto l'altro giorno tirandolo, ho detto, mi lo baracchino, l'avevo usato una volta nel campo, è bellino, perché c'ha un po' di funzioni, c'ha le memorie pure, oltre a girare c'ha altre memorie, c'ha 5 memorie più l'emergenza, c'ha altre cagattine, non so come esce, perché lo voglio provare dopo, più tardi, o stasera, perché c'ha un microfonino piccolino, voglio provare con un microfono amplificato. Non mi piace a me. Vabbè, esteticamente è bellino, è più bello perché l'ARA 48, io sono l'ARA 48 quello classico, dai. A me non piace, è troppo duro da far funzionare, cose, tutto in ferro, cioè è un bel pisante, a me non piace, anche se esce abbastanza bene, però prende un bel di colpi. No, non mi piace proprio un apparecchio, no, non mi piace. Ma è coso, il Typhoon ancora ce l'hai tu? Ce ne ho due Typhoon, quello modificato che è qua. Questo già messo al 3009, l'altro tempo è giù, la 25. Ma questo che ho usato è il 3009? Sì, il 3009 con MB più 4, sì. Spinge un bel. E quel Typhoon della tua fidanzata l'hai portato? E là, sì. E quello era una bomba, con il M90 lo facevi funzionare tu? No, qua c'è un microfono normale. No, sempre come MB più 4. Anche a casa tua, prima con le MB più 4 lo facevi andare? Sì, sempre. Una bomba, era una radio spettacolare, infatti spingeva un bel con la radio. Poi era forte, non era distorta, perché ci sono quelli che amplificano e poi senti tutti i disturbi, di sporca. Invece la tua era bella chiara, forte. Sempre quello famoso dello scambio, quello lì è. Capo. Non ti ha mai dato problemi questo? Oddio, problemi, vabbè, lì. Mi ha dato un problema di audio, però l'ho sistemato. Poi mi ha dato un problema di smitter, l'ho sistemato, ma niente cazzattine, là. No, dico, i finali sempre andando, non si sono mai crepati. No, vabbè, se non ho moduli senza stazione aria ti capa l'apparecchio. Poi ovvio, se i moduli fai passaggi lunghi, con stazionale lo bruci. Chiega, questo quanti watt c'ha questo che stai dando? 8 watt, 10 watt. Ma è pulito, naturale, non è aumentato? No, sì, è aumentato, vabbè. No, normale è 5 watt, 8 watt è stato portato. Però questo qua non c'ha il dissipatore dietro, perciò non conviene aumentarlo, se no rischi di bruciare i finali. Sì, è tanto, da 5 a 8 non è che ci ambassai, ma no, comunque il segnale è sempre forte il tuo. Forse abbiamo un passaggio dedicato, perché tu arrivi, considerando che sei molto lontano, molto lontano relativamente, arrivi molto più forte di altri che sono più vicino. Sì, no, vabbè, interessante è fare due chiacchiere, poi chi arriva più forte, chi arriva più basso. L'importante è che la radio sia chiara, poi se arrivi 5 o arrivi 9, però se la radio 5 va bene, non cambia niente, infatti è quello lì il problema, perché è inutile poi che tu ti fai sentire a 30 km e non senti niente gli altri che stanno parlando. Vabbè, interessante che devi andare al mare, Robe, ma c'è sempre la casa di al mare. No, non era la mia, a parte che sono da tanti anni che non ci vado, sarò dal 2000, l'ultimo anno sono andato nel 2013, ma era in affitto, non era la mia. Mio fratello c'è la casa del suocero e ce la dividono con i cognati, poi c'ho l'altro mio cognato che c'ha la casa di lì, diciamo è tutta una famiglia, poi ce l'aveva mia zia che poi se l'ha venduta, io non ne ho mai avuto, andavo sempre in affitto, tanto cosa te ne vai? Non mi è mai interessato neanche di comprare, a parte che non avevo i soldi, però tanto se ci stai 2 mesi all'anno cosa te ne affitti, ti paghi quei 2 mesi di affitto e buco. E poi tutte le manutenzioni e tutti i problemi ce li gratta il padrone di casa. E vabbè Robè, se uno la compra è sua, alla fine si gode i mesi estivi lì. Poi, come hai detto tu, praticamente ci vogliono i soldi. No, vabbè, quello sì, ma se devi investire non investire lì sicuramente, a parte che oggi c'è e domani decidono e buttano tutto a terra, quelle sono sempre in bilico, sono le uniche che sono rimaste, perché tutte le altre le hanno demolite da Coso, da Montalbano, quelle del Coso, Lido Iride, di tutte quante le hanno tutte buttate in terra. Questo perché si sono salvate, perché sono in comune di Porto Torres, però proprietà comune di Sassari, quel pezzo di terreno che l'avevano donato, per cui non si scontrano nel Porto Torres con Sassari, non si scontrano. E l'unica cosa potrebbe essere la regione che un giorno decide, beh, allora la prendere tutta terra, vogliamo fare il coso per tutta l'abitazione, come si chiama, per gli altri cittadini. Lo so, comunque ci vogliono studi, ma vabbè, alla fine tu c'hai il camper, no? Sì, io col camper mi diverto lo stesso, infatti, vabbè, di lì c'avevo la comodità che usciva all'officina, andavo la sera, di lì facevo tutti i fatti miei, poi eravamo tutta una famiglia, ci sono 27 famiglie di lì, ci conosciamo tutti da quando siamo nati, anche se qualche rancore c'è tra qualche famiglia, però in linea massima io andavo d'accordo con tutti, però era comodo, la mattina te ne bisavi, ti buttavi in acqua, poi te ne andavi a mangiare, avevi pranzo, poi c'era un bel di movimento, anche se devo dire quest'anno un po' di meno. No. Forse per questo coronavirus, non lo so, un po' meno gente c'era in giro, ma gli anni passati era un divertimento continuo, di la notte non si dormiva, cacchio, stavi sempre in giro, fenda brutto. Mo si pagava da affitto, Robert. Diciamo intorno agli 800 euro al mese pagavo, ma io perché conoscevo questa signora, se no c'è gente che chiede 600 euro a settimana di lì, c'è un tipo, un amico mio, che gli danno 600 euro, vengono questi da continente, loro appena vedono il posto si innamorano, si dividono le spese in due o tre famiglie e pagano. Ah, pensavo di più, ma che lì però, cioè ad agosto 600 euro lo stesso pagavo. Una settimana mi sto parlando, a parte che non ce n'è di posto, ho riuscito a trovarla un amico, una dove andavo io anni fa, e quello ha pagato 1500 euro per un mese, 3000 euro ha pagato per due mesi in tutto, ed è quella in fondo a tutti, tutto in nero naturalmente, a chi nessuno fa con lui, se la voleva comprare, però stabili cosa compri, se ci stai due mesi all'anno, anche tre mesi, cosa te ne fai, d'inverno è un mortuario, c'è gente che ci vive, quattro famiglie che ci vivono, ma se vai adesso, a parte che il mare d'inverno non è come il mare d'estate, ogni rumore, ogni pericolo. No, dico, tu pagavi tutti quei mesi 600 euro, 800. Un mese, 800, anche 1000 ne pagavo, dipende, per dire, luglio facevi 800 e 1000 ad agosto, più o meno così pagavo. Poi c'era gente, ti ripeto, che ne chiedono 1500. Vabbè, cazzo, ma anche ad agosto, così, luglio, agosto, sempre 800. No, 800 luglio e 1000 ad agosto, poi alla fine se pagavi due mesi ti facciamo qualcosina di sconto, io pagavo in anticipo così ero più tranquillo, ossia che ci amavano idea, lì il problema se trovi uno che magari da 100 euro in più non te ne è andata, infatti io ero dall'anno precedente, per dire dall'estate, da quest'estate per prenotavo per l'estate successivo, dicevo mi te prendi l'acconto così me lo blocchi, ossia vabbè, con me non ci sono stati problemi, ma da una che ero andato, cacchio, che sono andato quanto sono stato, 20 giorni più o meno, cioè, subito gli ho detto ma trovai, no aspetta, c'è un altro, alla fine ha detto aspetta e me ne sono andato per coprirmi le spalle da un altro, se no guai, rimanevo, era brutto d'estate, poi con le bambine piccole. Ah, vabbè, certo, vabbè, sono grandi i tuoi figli, vabbè. E una ne ha 23 ed è a conto suo, e poi c'ho l'altra, la più piccola, e mia ha fatto 19 anni avanti ieri, poi c'è l'altra, no, il 4 li ha fatto. Tra un po' tocca a me, tra 8 giorni. Ma se stai aspettando bambino? No, a fare degli anni. Non ho capito, tra 8 giorni? A fare gli anni. Ah, pensavo che tu stai aspettando la tua fidanzata un bambino. E se lui mi manca, con i tempi che corrono, va. Vabbè, è importante stare tranquilli e volersi bene e andare d'accordo. Quanti anni fai tu, Lu? 4-6. Ma di che giorno sei nato, mi hai detto? 16 dicembre. Ah, ho capito, fate 8 giorni. Ok, vabbè, io arrivo a settembre. Ok, vediamo, facciamo un attimino di bianco, se c'è qualcuno che vuole entrare, se no lo riprendi tu. Luca, a te la sempre quella là, c'hai Lu, tu? Beh, stavo bussando, guarda. Ora, c'è avanti. Sezione 10, c'è qualcuno su 10? Ora, sezione 10. Vedi Robert? Ehi, mi ha bussato la vicina di casa per darmi i giornali, mi serve per il cane. Sono benissimo, non stava avanti, pensavo che ci fosse qualcuno considerando la giornata, invece. E cosa, Luca? Come si chiamava? Nicola, che fine ha fatto? Boh, chi l'ha più sentito? Io ce la volevo mettere l'antenna, era tutto entusiasta quel tipo, invece sai che la gente all'inizio è così e poi cambia. Non lo so, ma non sta bene, Oh, freschito c'è fuori, freschito, ma è la mela. E dopo devo salire a Uso a trovare un amico che mi deve far vedere roba. E no, lì già ci sarà freddo a Uso, infatti già mi dà pube. E coso? L'altro giorno ho sentito la grobbe, a te le cose da quanto tempo stavo senza sentirlo? Ma arriva basso basso. Vabbè, diciamo qua già siamo abbastanza vicini, già lo tiro fuori, ma considerando per come usciva prima era molto più facile, c'è un'antennina cagata, ma qua già arriva 9.10, 9.15. E coso l'altro, Riccardino, lo stesso non l'ho più sentito. Manco io. Lo so, all'inizio vedi così e poi... vabbè, pure tu già intanto sparisci, stai mesi e mesi, no, ma giorno e giorno senza entrare. No, vabbè, periodo estivo ero sempre in giro, sempre il coso, la sera poi arrivavo eri stanco, non mi ponevo con baracchino, sono stato tutto l'età. E il periodo del coronavirus di lì c'era ripopolato, c'era un po' di gente. Fino a che non ci chiudono tutti, che comunque stiamo andando un po' di gente, quest'anno. Ho saputo di una ragazza che passava sempre, c'era la figlia a scuola, il figlio, passava ogni santo giorno, la macchina bianca, una ragazza giovane, ci abbiamo trovato un tumore, poi hanno scoperto che c'era il coronavirus, si è aggravata ed è morta. Ma che avrà avuto? 45, 46, 47 anni, ma neanche. Non so, vabbè, ormai basta che muori se muore il coronavirus. Il cognato di un amico mio sul continente è venuto un ictus, un aneurisma cerebrale, è rimasto in coma 15 giorni, coronavirus, e lui è morto. L'altro giorno un'altra encefalite, questa si è fatto il vaccino, l'altra cognata di questo amico mio, stranamente li sono morti nel giro di un mese due cognati, e ha fatto il vaccino, gli è salita la febbre, l'encefalite ed è morta, l'effetto collaterale del vaccino. Io questo vaccino poco ci credo. No, lascia perdere, non fate questo vaccino, a parte che un vaccino deve essere testato e ci vogliono anni e anni di test, di contromisure, eccetera. Tu non puoi fare un vaccino, fussi in ritardo, non hai ancora isolato il virus, dice sì, fa effetto, ciò vuol dire fare il vaccino, iniettati in forma ridotta la malattia e tu devi fare gli anticorpi per quella malattia, se non hai niente io non me ne posso il vaccino, poi devo fare il vaccino di una cosa che potrebbe venirmi, e allora devo fare il vaccino per l'HIV, per l'Ebola, per il tetano, per il tifo, per cosa, ce ne sono di virus, cioè, stiamo scherzando. Ma infatti, bisogna farsi il vaccino per ogni cosa. Vabbè, Roberto, se è obbligatorio, adesso vediamo cosa ne esce, vediamo un po' chi lo fa questo vaccino, se lo fanno anche loro, questi che lo dicono. Vai, ti fanno vedere che ci stanno facendo il vaccino e ci stanno iniettando cocaina, buddy, per fare un esempio, lascia perdere, che quelli che lo producono veramente il vaccino non se lo fanno, come quando era successo tanti anni fa, per non mi ricordo che malattia era, per lì non se l'ha fatto, tutti quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nessuno se ne aveva fatto di vaccino, poi non so quanta gente mutra di effetti collaterali o gente che si è preso altri tipi di malformazioni, in Africa quanti ne sono, il vaccino è una cosa molto ma molto delicata, se no ci dovremmo fare anche il vaccino per la cosa, per la peste, per il tifo, per tutte le malattie, tu ti fai, ci sono le medicine che ti curano, se ti dovessi prendere una malattia al tetano, ti vai, la medicina che te lo cura, così per il tifo ci sono gli antibiotici, ci sono altri prodotti, perché mi devo fare un vaccino se non è necessario, ma stiamo scherzando, così ai bambini li hanno obbligati, il problema è che io l'ho detto dall'inizio, da febbraio, che questi imbecilli costringeranno la gente a farti il vaccino, dicono no, non è obbligatorio, però se tu vuoi entrare al cinema o se vuoi andare in aereo o in nave, devi avere la certificazione che c'è il vaccino, come hanno fatto in altri posti, in Cina, vogliamo fare la dittatura di queste cose, lasciamo perdere, poi agli anziani, soprattutto agli anziani, la cosa più pericolosa è fare un vaccino all'anziano, perché se poi si prende un raffreddore e l'organismo sta combattendo contro la malattia del vaccino che gli ha iniettato, muri di affegoso. È un bel casino, siamo nella merda veramente, ma un po' di gente sta morendo, gente che conosco, un bel, cazzo. È proprio una guerra muta questa, una guerra silenziosa, sta portando via persone, ma poi giovani. Ma vabbè, poi se uno ha 80 anni e è ancora giovane, oddio, non è un quarantenne, però se sta bene di salute, si portano via pure quelli. Luca, prova a aprire un po' gli occhi, come mai non è morto neanche un giocatore, neanche un politico, neanche un personaggio storico importante? Non è morto manco uno. Quelli che sono morti hanno altre patologie, può capitare che qualcuno magari anche per il coronavirus, ma non iniziamo a spaventare la gente, cacca. Lo sai quanti ne muoiono in un anno in Italia di influenza? 8.000, e quanti ne muoiono di tumore, di cose, migliaia, decine di migliaia. Tu non puoi mettere, se uno c'ha il tumore e ci ha preso anche il coronavirus, che è morto per il coronavirus. Io ho delle persone che conosco che non mettono nulla al coronavirus, ci avevano altre patologie e sono morti. Secondo me c'è una connessione tra il fatto che tutto lo riconosce più Luca che si rumoreggia. Non è che mi devo toccare i cogli del veleno. Oh Lu, mi hanno chiamato, dai, devo andare via, dai, ci sentiamo stasera se coincide, ciao, buon proseguo. Ehi, ciao Roba, dai, ciao. Ciao Marco. Ma chi è che mi ha salutato? Oh Luca. Ciao. Chi è? Oh, mi ascolti. Vabbè. Copiate il bombo, lo cambio! Attenzione canale 10, copiate Antonio Bombo.